Salva Danaio di Deborah Rosciani. Da Deborah Rosciani, buona giornata e bentrovati a Salva Danaio. Allora, nell'ultimo anno le vicende finanziarie di cui molti risparmiatori italiani hanno pagato le conseguenze sono state diverse. Di sicuro il crack della banca d'affari Lehman Brothers è stato il più dirompente, perché oltre ad evidenziare che molte famiglie italiane avevano investito in titoli della banca, ha provocato il quasi totale collasso finanziario generale, appunto. Un'altra situazione che ha messo in luce diverse situazioni problematiche è stata il fallimento di General Motors, il colosso automobilistico di Detroit, il simbolo dell'industria automobilistica mondiale. Il gruppo adesso è al centro di una pesante ristrutturazione che passa attraverso quello che in America è conosciuto come Chapter 11, il capitolo 11, una bancarotta pilotata che sta cercando di fare in modo che non risulti devastante questo fallimento per una platea enorme di creditori, centinaia di migliaia, come potete immaginare date le proporzioni del gruppo. È una situazione oltreoceano, sì, ma che, come dicevamo, interessa direttamente anche noi, perché il crack ha coinvolto circa 10.000 risparmiatori italiani, detentori di titoli per circa $1 miliardo, investitori che hanno ancora pochi giorni di tempo per fare una cosa che, a dirla, è difficile, ma va fatta per forza se si vuole conservare il diritto a qualche forma di risarcimento, e cioè l'insinuazione al passivo, ovvero la registrazione del proprio credito presso la procedura Chapter 11. E allora, cosa vuol dire tutto questo? E tra l'altro c'è anche una novità estremamente recente di qualche giorno fa, perché l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha stipulato un accordo con la procedura fallimentare che ha un esito, un impatto concreto anche per i nostri risparmiatori. Vi spiegheremo tutto questo questa mattina, intanto con la collega del Sole 24 Ore, Laura Serafini, collegata dagli studi di Radio 24 di Roma. Laura, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno a voi. Grazie mille. E poi abbiamo due legali, Massimiliano Danusso e Giampaolo Garofalo, rispettivamente senior partner e senior associate dello studio legale Allen & Overy, che appunto per conto dell'ABI ha seguito queste trattative con General Motors. Allora, l'avvocato Danusso dovrebbe essere già collegato con noi telefonicamente a Londra. Eccoci qua, avvocato, buongiorno anche a lei. Mentre buongiorno. Da Roma abbiamo l'avvocato Garofalo. Avvocato, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Quindi, insomma, è tutto il miglior supporto possibile questa mattina per i nostri ascoltatori, che se vorranno farci delle domande complicate rispetto al loro investimento troveremo sicuramente una risposta per loro, almeno speriamo, anche perché comunque è una procedura piuttosto complessa quella che sta portando appunto verso la ristrutturazione del gruppo americano. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Dobbiamo dare un'occhiata alla borsa, come facciamo tutte le mattine. La situazione era partita benino stamattina con rialzi che stavano intorno al 0,5%. Adesso invece vedo che le borse europee stanno raddoppiando i loro guadagni. Abbiamo un più 0,7% a Parigi, un rialzo di 0,5% a Francoforte. Da stamattina Londra è la più prudente e guadagna anche adesso un po' meno delle altre, comunque più 0,36%. Milano più 0,77% sul FTSE MIB. E l'oro, ancora una volta, il tema della giornata, è arrivato a Londra a 1146 dollari l'oncia, poi a Chicago sta già toccando i 1148, corsa dell'oro spinta dalla debolezza del dollaro, e tra l'altro anche altre commodities, altre materie prime stamattina sono in fermento, l'argento, il platino, entrambi si sono spinti ai massimi da 16-18 mesi a questa parte. Ieri ha chiuso bene anche Wall Street. Diamo un'occhiata ai migliori titoli di Milano in pregiro: più 4 STM, più 3,58 Ansaldo, più 2,54 Tenaris più 2,14, rialzi di 2 punti per l'automatica Autogrill, la Popolare di Milano, mentre da quando è stata pubblicata la trimestrale Geox continua a scendere e anche oggi segna la peggior performance di Piazza Affari con un ribasso dell'1,36%, segue Fondiaria meno 0,25. Euro su dollaro 1,49,48, questi sono i temi della seduta oggi in borsa, almeno fino a questo momento. Noi la borsa la lasciamo e torniamo a fare un po' il punto della situazione General Motors. La scadenza per insinuarsi al passivo è sempre la stessa, il 30 novembre. Ma per gli obbligazionisti rimasti coinvolti nel fallimento di General Motors è arrivata una buona notizia. L'Associazione Bancaria Italiana è scesa in campo nei giorni scorsi per assistere i clienti in difficoltà perché costretti a registrare il proprio credito in maniera indipendente alla procedura di Chapter 11 avviata negli Stati Uniti. In sostanza, grazie ad un accordo raggiunto con i legali di General Motors, le banche italiane potranno registrare in modo collettivo i crediti vantati dai risparmiatori nei confronti del gruppo automobilistico di Detroit finito in amministrazione controllata, ricalcando in parte quanto già avvenuto per Lehman Brothers. Questa procedura, nella quale sono coinvolti 10.000 risparmiatori per un ammontare di circa $1 miliardo, interesserà solamente le obbligazioni General Motors denominate in euro e in sterline. In questi giorni gli interessati riceveranno di fatto una lettera da parte delle banche che li informerà dell'iniziativa cui sarà dato seguito anche con il silenzio assenso. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde per intervenire per le vostre domande qualora siate titolari di un investimento in titoli appunto obbligazionari GM. 349 238 6666 è il numero per i vostri messaggi. Ne è già arrivato uno di Tiziano che ci racconta che è un obbligazionista GM 2033, quindi un titolo con scadenza a questa data in euro, cliente della banca Intesa San Paolo. La banca ha già comunicato che è stata autorizzata dalla corte fallimentare a presentare un'insinuazione collettive e quindi io non devo fare nulla. Questo è quanto ci racconta Tiziano. Laura Serafini, e sì, sulla base di quanto abbiamo detto prima, sulla base di questo accordo raggiunto fra ABI e General Motors, effettivamente le banche si incaricheranno di, come dire, non so se poi è il termine appropriato, rappresentarli di fronte alla Corte fallimentare di New York e comunque di insinuarsi al passivo per conto loro. Ma sì, io non parlerei di rappresentazione perché forse è un termine diciamo un po' troppo ampio. Sicuramente hanno, chiamiamola una delega, a poter agire per conto dei loro clienti per registrare questo credito. La registrazione del credito è una procedura che serve all'amministratore della società che è finita in Chapter 11 di poter avere un chiaro quadro di quelli che sono i crediti che vengono vantati nei confronti di questa società. Quindi è un modo per dire io ci sono e mi è dovuta questa somma. Per avere, proprio come l'hai definita tu prima quando ci siamo sentiti, una fotografia reale, insomma, più vicina alla realtà possibile, perché poi non è detto che tutti riescano ad aderire, no, all'insinuazione. Ma diciamo che nel caso di questi bond, cioè bond che sono stati venduti ai risparmiatori e i cui dati, ma anche il deposito titoli eccetera, sono tutte, chiamiamole, attività che sono gestite dalla banca, e questo rende alle banche molto più semplice agire per conto di tutti i clienti invece di andare a prendere una per una le varie posizioni, magari con una forma di procura. Quindi sostanzialmente diciamo che la banca si trova in una posizione tale da poter in qualche modo dare alla controparte GM un chiaro quadro di tutto quello che sono le posizioni della propria clientela. Quindi quello che poi accadrà è che sarà l'amministrazione in qualche modo passerà in rassegna tutti questi claim, si chiamano claim diciamo in inglese, per verificare tutti quelli che sono effettivamente legittimati, che la proprietà è comprovata e quant'altro. In questo caso difficilmente potranno esserci, come dire, dei casi di rigetto di questi crediti, a meno che non ci siano dei casi di mancanza diciamo, che la procedura, documentazione, insomma, non sia stata formalizzata al meglio. Esatto, questo è difficile che accada. Può accadere più per altre categorie di creditori, magari più importanti, ma non è il caso, diciamo, dei risparmiatori italiani. Quindi diciamo che il fatto che le banche si facciano carico per conto della propria clientela dell'insinuazione a passivo è sicuramente una buona cosa. Di fatto però che gli obbligazionisti italiani fossero in difficoltà perché la scadenza del 30 novembre è nota da tempo a come dire avviare e gestire la pratica per registrare il proprio credito era cosa nota da tempo, però diciamo che l'ABI si è accorta forse un pochino in ritardo che doveva evidentemente attivarsi con questa procedura, che poi vedremo è semplificata e quindi spiegheremo di che cosa si tratta. Allora qui io devo chiamare subito in causa gli avvocati che sono a nostra disposizione questa mattina. Inizio con l'avvocato Massimiliano D'Anusso, senior partner dello studio legale Allen & Overy e, come ho ricordato già prima, lo studio legale che sta supportando l'ABI dal momento in cui ha deciso di scendere in campo per assistere i clienti rimasti intrappolati nel default di General Motors. Avvocato D'Anusso, so che lei è un legale, quindi non può esattamente magari rispondere per i vertici dell'ABI, però mi chiedo come mai si è arrivati proprio a ridosso della scadenza a questo accordo. È stato così difficile metterlo in piedi? Beh, no, l'accordo in se stesso non è difficile, diciamo, la difficoltà maggiore è stata nel fatto che per raggiungere questo accordo si è dovuto superare un ordine iniziale del giudice fallimentare che aveva invece imposto le insinuazioni individuali, quindi è stato necessario spiegare un po' agli americani le complicazioni che sarebbero derivate da questo tipo di approccio, la necessità di avere procure individuali e quant'altro dei singoli clienti, e quindi ottenere poi un nuovo accordo con il comitato dei creditori che consentisse di effettuare queste insinuazioni collettive, così come è stato fatto per Lehman. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi siamo ritornati su un crack che è stato piuttosto dirompente per il nostro mercato, quello di General Motors, che in realtà non è stata una vera e propria, come dire, bancarotta, nel senso che adesso il gruppo, il più grande gruppo automobilistico mondiale, è al centro di una procedura fallimentare che in America si chiama Chapter 11, quindi è una bancarotta guidata e che naturalmente prevede anche una sorta di risarcimento per tutti i creditori in giro per il mondo. Io l'ho estremamente banalizzata, cerco solamente di rendervi le cose semplici. Che cosa è successo? Che naturalmente questo semicrack ha ovviamente coinvolto anche molti risparmiatori italiani, e adesso si cerca di capire come potranno aver diritto, come possono far valere il loro diritto in questa procedura di ristrutturazione. Allora, possono farlo intanto entro il 30 novembre attraverso la cosiddetta insinuazione al passivo. Nei giorni scorsi l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, è riuscita a stipulare un accordo con General Motors, un accordo bilaterale per consentire l'iscrizione collettiva dei crediti GM per conto dei clienti attraverso una procedura semplificata. Questa mattina con noi i legali che stanno seguendo questa procedura e la collega del Sole 24 Ore, Laura Serafini. Allora torno al legale che avevo evocato prima, l'avvocato Giampaolo Garofalo, per farci chiarire in cosa consiste questa procedura semplificata, e poi andremo anche alle differenze a seconda delle obbligazioni che si detengono. Avvocato Garofalo. Grazie. La procedura semplificata consentirà alle banche italiane, a ciascuna banca italiana, di presentare un'unica domanda di insinuazione per conto della propria clientela, quindi un unico, diciamo, documento da inviare e depositare alla Corte di New York entro la data del 30 novembre. Preciso per gli ascoltatori che il deposito della domanda di insinuazione deve avvenire a New York entro il 30 novembre, quindi ovviamente dall'Italia devono partire un po' prima. Un po' prima, e sostanzialmente in questa domanda di insinuazione la banca non dovrà dare evidenza dei nominativi dei clienti, ma esclusivamente del valore dei titoli General Motors per cui presenta l'insinuazione, senza quindi dover dare ulteriore, diciamo, prova documentale del credito vantato dalla banca e dalla propria clientela, perché l'accordo stipulato dall'ABI con General Motors per conto delle banche italiane, insomma, ha creato una sorta di via privilegiata alle banche italiane rispetto alle altre banche, perché l'accordo, come lei ha giustamente ricordato, è un accordo specifico e speciale stipulato dall'ABI a favore delle banche italiane, che è stato comunque approvato dagli altri creditori di General Motors, e quindi sostanzialmente consentirà alle banche italiane di insinuare al passivo di General Motors sui crediti dei propri clienti senza, diciamo, avere alcuna attività particolare da parte del cliente, che dovrà solamente, diciamo, qualora non voglia essere assistito dalla banca, comunicare questa sua volontà alla banca stessa, se no la banca, diciamo, opererà per conto del cliente e quindi poi informerà successivamente il cliente dell'evoluzione della procedura. Volevo tornare all'avvocato D'Anusso da Londra. Perché, avvocato, siamo riusciti come sistema bancario italiano a guadagnarci questa opportunità con General Motors? È stato frutto solamente di un'insistenza molto pressante o c'è qualche altra ragione? Beh, noi avevamo Noi avevamo l'esperienza di Lehman, perché devo dire che anche nel caso Lehman sono state le banche italiane a spingere inizialmente per ottenere l'ammissione collettiva. Devo dire che tutte le altre banche europee hanno un po' seguito l'iniziativa dell'ABI, quindi abbiamo avuto il merito di essere stati i primi a promuovere l'iniziativa. Sulla scorta di quella e dell'esperienza che abbiamo avuto lì, tra l'altro lo studio americano che assiste General Motors, il fallimento di General Motors è lo stesso studio che assiste Lehman, Vi Gotchal, avendo la possibilità di utilizzare quindi l'esperienza acquisita, siamo riusciti, devo dire, in quel caso di General Motors, noi soli nel senso solo le banche italiane, non solo noi come studio, ma le banche italiane sono riuscite ad ottenere questa insinuazione collettiva. Non mi risulta che nessun'altra banca non italiana abbia ottenuto lo stesso risultato. Mm. Volevo tornare alla collega Laura Serafini, le leggo un messaggio, c'è anche Pietro da Pavia, pronto. Pietro, le chiedo solo un attimino di pazienza perché volevo dar lettura di un sms al 349-238-6666, c'è un'ascoltatrice, Anna da Torino, che dice: io vorrei farvi una domanda che reputo ingenua, ma la bancarotta di GM non è avvenuta dall'oggi al domani perché gli azionisti, o in questo caso gli obbligazionisti, perché di loro stiamo parlando, non sono stati avvisati dalle banche. Laura, ti volevo chiedere un commento su questo, perché in realtà non è che ci giunge del tutto nuovo un commento di questo tipo, un'osservazione di questo tipo, ma abbiamo appreso dai grandi crack finanziari degli anni passati, e qualcuno ha riguardato anche società che erano molto vicine a noi come Ciri e Parmalat, di certo le banche non ci avvisano mai per tempo, però ecco, non ci avvisano per tempo quando per esempio succede un caso come Lehman Brothers. E su General Motors forse il caso è un po' diverso, perché sicuramente che il gruppo viaggiasse in cattive acque era noto da tempo. Il tema che è andato molto di moda, di cui si è discusso tanto negli ultimi mesi, è il tema del too big to fail, se non sbaglio, è troppo grande per fallire, per cui sicuramente un gruppo di questo tipo non verrà mai lasciato in pasto al mercato, non verrà mai, come dire, fatto andare in bancarotta, e di conseguenza forse un po' su questa speranza il mercato viaggiava, navigava. Cosa ne pensi? Ma sicuramente, come dire, i casi Lehman e i casi GM sono un po' diversi, e io non sono d'accordo, o del tutto d'accordo, sul fatto che su Lehman in qualche modo le banche non potevano avvisare i clienti. Ci sono casi documentati in cui i clienti hanno cercato di ottenere la vendita delle obbligazioni Lehman prima del default, e non è stato possibile per loro farlo. Magari sono solo alcuni casi isolati. Diciamo che le banche non hanno questo ruolo di tutela del risparmiatore, per cui il risparmiatore deve essere anche lui attento a informarsi su quello che accade. Sul caso GM, probabilmente quello che hai detto tu è vero, cioè il fatto che comunque per le case automobilistiche si pensava che in qualche modo ci sarebbe stato un intervento magari dello Stato per salvarle. Cosa che peraltro in GM c'è anche stato, no? Assolutamente, perché in caso GM il tema è questo, cioè la società è stata spacchettata in una bad company e in una good company. La good company, cioè la società con gli asset in bonis, continua a lavorare, sta avviando un processo di ristrutturazione, e sarà poi con quegli asset lì, quando saranno quotati, che verranno ripagati gli obbligazionisti di Lehman, che sono rimasti però nella bad company. Di GM, ovviamente. È chiaro che purtroppo chi è titolare di un'obbligazione corporate, cioè emessa da una banca o da un'impresa, comunque deve sapere che un rischio c'è sempre, non sono titoli sicuri al 100%. Quindi però è chiaro che quando si arriva a ridosso di queste decisioni poi è molto difficile poter fare qualcosa, perché quei titoli diventano assolutamente illiquidi, assolutamente invendibili, per cui si è un po' in trappola. Sì, tra l'altro ci sono anche delle indicazioni di cui parlavo ieri con l'avvocato Garofalo a proposito di questo, però chiedo ancora un secondo di pazienza ai legali, perché abbiamo alcune domande di alcuni ascoltatori. Ce n'è una, Luigi della provincia di Napoli, che mi sembra molto intelligente, perché Luigi, per non saperne leggere né scrivere, la sua insinuazione al passivo e l'adesione al Chapter 11 l'ha già fatta per conto su. Luigi, buongiorno, ci racconti buongiorno un po'. A lei. No, io grazie al Sole 24 Ore avevo letto come fare per inserirmi nell'insinuazione, quindi ho scaricato dei moduli, e la settimana scorsa ho fatto raccomandata lì a Dublino, mi pare che era l'indirizzo. Volevo sapere, adesso ho sentito che l'ABI ha ha fatto questa iniziativa. Volevo sapere se posso chiedere anche alla banca, che però del resto non mi aveva fatto sapere niente, oppure la raccomandata che ho fatto esclude l'ipotesi di poter incendiare con la banca. La ringrazio, Luigi, e chissà che qualche altra persona, qualche altro investitore non si trovi nella sua medesima situazione. Avvocato Danusso, posso venire da lei? L'abbia preso in considerazione questa eventualità, cioè che qualche investitore si sia mosso individualmente, e adesso che cosa vuol dire? Ripresenta anche per conto di questi la documentazione, la banca che gestisce la procedura a livello collettivo? C'è una doppia insinuazione? Sì, è già successo anche nel caso di Lehman, adesso forse Giampaolo si ricorda anche nel dettaglio, ma in ogni caso non dovrebbe essere un problema, nel senso che la cosa più semplice è semplicemente fare una seconda insinuazione che appunto farà la banca in maniera collettiva, quindi senza individuare i singoli nominativi. Dopodiché ci sarà una riconciliazione che sarà fatta dagli organi fallimentari, e quindi sarà un problema poi loro eventualmente, come succederà, spulciare, diciamo, eliminare la doppia insinuazione. Però magari non farei nulla di contrario, cioè una volta che è stata fatta un'insinuazione individuale seguirei anche il leader della banca, certamente non rinuncerei a nessuna delle due, poi dopo si vedrà. Avvocato Garofalo, voleva aggiungere qualcosa rispetto a questo? Conviene comunque a Luigi farlo presente al suo intermediario, alla sua banca? Assolutamente, anche perché, come abbiamo detto, l'insinuazione della banca è semplificata, anche perché, diciamo, la banca non dovrà presentare documentazione, e quindi la verifica da parte della procedura della correttezza dell'insinuazione della banca stessa sarà molto più, passatemi il termine, superficiale e di forma. Sostanzialmente, diciamo, l'insinuazione delle banche dovrebbero essere, diciamo, ammesse senza colpo ferire. Al contrario, forse un'insinuazione individuale potrebbe essere esaminata dalla procedura con maggiore attenzione per eventuali errori di forma o altre questioni. Quindi sicuramente consiglio all'ascoltatore di chiedere al proprio intermediario, alla propria banca, di considerare anche il proprio credito all'interno dell'insinuazione collettiva, in modo tale che sia insinuato anche in questa forma. Allora, General Motors, oggi il nostro tema, l'insinuazione al passivo, bisogna farla entro il 30 novembre, ma alla luce di questo accordo bilaterale stipulato fra General Motors e l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, praticamente sarà permesso l'iscrizione collettiva dei crediti GM per conto dei clienti italiani attraverso questa procedura semplificata che abbiamo spiegato questa mattina. Allora, c'era una domanda di un ascoltatore, Pietro da Pavia, che ci fa ritornare indietro di qualche mese rispetto a tutta la vicenda GM. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Dunque, si trattava di questo. Io avevo fatto, c'era stata quella prima offerta agli obbligazionisti GM nel mese di maggio. Sì. Davano 225 azioni per ogni $1,000 e pagavano anche la cedola. Poi questa offerta qui andò, come disse lei, quasi deserta, non raggiunse il 90% e quindi non se ne fece più niente. Però ce ne fu una seconda che partì un giovedì per terminare un sabato, dove offrivano sempre le 225 azioni per $1,000 e poi invece dei warrant su azioni successive. Io vorrei sapere, questa seconda offerta non siamo stati in grado purtroppo di accettarla, no, Pietro, e di firmarla. Guardi, il tema è stato questo, anche noi ci siamo documentati questa mattina su questa vicenda perché ce l'avevano chiesto anche ascoltatori, siamo risaliti proprio sul rush finale, prima della sigla di Salvadanaio, a risalire al fatto che quell'offerta riguardò solamente un gruppo molto importante di investitori istituzionali americani, quindi non era possibile per gli investitori retail, per i piccoli. E io adesso non so se peraltro Danusso e Garofalo, ridocumentandosi tutta la vicenda GM, visto che l'hanno dovuta seguire per conto dell'ABI, mi possono suffragare rispetto a questo. Avvocato Danusso da Londra, lei si ricorda di questo aspetto? A me sembra che appunto la seconda offerta brevissima riguardava solamente investitori importanti, fondi pensione americani. Sì. Sì, risulta anche a me, forse anche l'avvocato Garofalo, io ho solamente questa informazione. Garofalo, sì. Fu un'offerta limitata sia temporalmente ma soprattutto soggettivamente a soggetti, diciamo, di diritto americano che avevano dei crediti nei confronti di General Motors, che quindi, insomma, hanno beneficiato di questa offerta speciale, ma che non è stata aperta ad altri investitori né italiani ma né, diciamo, che non rientrassero in questa qualifica. E infatti, Laura, volevi aggiungere qualcosa se lo ritieni rispetto a questo? Peraltro General Motors, secondo il processo di ristrutturazione che è in corso, lo dicono i giornali in questi giorni, dovrebbe tornare in borsa il prossimo anno. Allora, chiaramente molti ascoltatori chiedono, alla luce adesso del fatto che noi ci stiamo insinuando tutti al passivo, sarà possibile stabilire ad un certo punto se si può dare qualche notizia rispetto a come si farà quanto varranno i miei vecchi crediti rispetto alla nuova società? Come avverrà la ripartizione, il risarcimento, Laura, chiamiamolo come vogliamo? So che è una strada anche questa piuttosto complicata, adesso fare previsioni immagino sia dura, però c'è una strada, un'idea che si sta perseguendo? Sì, fare previsioni sicuramente è molto difficile. Allora, rispetto alle domande che sono state fatte prima sulle offerte avvenute nel mese di maggio, in ogni caso si tratta di qualche cosa che è precedente alla missione di GM al Chapter 11, per cui di fatto oggi tutto questo è azzerato e qualsiasi forma di rimborso del risparmiatore non potrà che avvenire attraverso l'amministratore della bad company. Sarà lui a un certo punto a quantificare quanti sono i crediti vantati, quindi il suo passivo, quali sono gli asset che ha a disposizione per pagare e calcolerà quello che sarà il tasso di rimborso. Allora, a questo proposito possiamo dire questo, che gli asset che ha a disposizione l'amministratore sono soltanto le azioni della nuova GM, cioè della compagnia quando verrà quotata in borsa, presumibilmente il prossimo anno. Diciamo, è stato negoziato una quota minima del 10% delle azioni di questa società, che può salire al 12% se il passivo supera i 35 miliardi di dollari, cosa che pare si stia superando. Dopodiché ci sono altre percentuali, cioè sono delle opzioni fino a, adesso mi sembra, un 15% del capitale ulteriore di GM che possono scattare se la patrimonializzazione della nuova GM supera due soglie, una di 15 e una di 30 miliardi di dollari. Quindi però se noi consideriamo che il passivo è, presumiamo, di 35 miliardi di dollari, che la società, insomma, ci sono delle stime per ora del tutto provvisorie, quindi non prendiamole con beneficio di inventario, ma insomma questa nuova GM potrebbe magari arrivare a quotare sui 45 miliardi e che a disposizione c'è tra un 10 e un diciamo 25% della nuova GM a disposizione, si calcola facilmente che insomma a disposizione dei creditori ci saranno un 8-10 miliardi di dollari a fronte di richieste per 35, quindi fate voi il riparto in che condizioni potrà avvenire, certo. Ecco, quindi non diciamo briciole, qualcosa ci sarà e però insomma saranno sicuramente rispetto all'investimento iniziale percentuali abbastanza contenute, e però insomma sempre meglio che niente. C'è chi è rimasto invischiato in casi passati di risparmio tradito e non vedrà probabilmente mai più niente, per cui sempre meglio che niente, per l'appunto. Allora, Ferdinando da Varese ci permette con la sua domanda di fare una precisazione che sto annunciando dall'inizio della trasmissione e non riesco a fare, e adesso la facciamo però. Ferdinando, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Grazie, ci dica. Volevo semplicemente sapere, per quanto riguarda le obbligazioni denominate in dollari, se a tutela dell'obbligazionista è tutto automatico oppure... Precisazione di non trascurabile importanza, Ferdinando. Avvocato Garofalo, mi aiuta lei, e mi pare che qua la situazione sia un po' più complicata rispetto alle obbligazioni denominate in euro o in sterline. Beh, più complicata. Diversa. Diversa, assolutamente. Le obbligazioni in euro e in sterline sono quelle per le quali l'ABI ha raggiunto l'accordo con General Motors. Per le obbligazioni invece denominate in dollari statunitensi, invece l'insinuazione l'effettuerà l'indenture trustee, che non è altro che, diciamo, dal punto di vista del diritto italiano, qualificabile come il rappresentante degli obbligazionisti, vale a dire il soggetto che, ai sensi della documentazione contrattuale dell'emissione obbligazionaria, ha il potere di tutelare i diritti degli obbligazionisti. E quindi sarà questo soggetto che si insinuerà al passivo di General Motors per conto degli obbligazionisti, e sostanzialmente anche in questo caso, quindi anche per il caso dei titoli in dollari statunitensi, il cliente, diciamo il consumatore italiano, non avrà da compiere alcuna attività, perché l'insinuazione sarà automatica e poi sarà il trustee, tramite i canali di comunicazione, quindi poi tramite l'intermediario bancario, che fornirà aggiornamenti e informazioni sullo sviluppo della procedura. Certo, auspichiamo che l'intermediario comunichi quantomeno alla propria clientela che per questa fattispecie particolare di obbligazioni la strada che si deve perseguire è un'altra rispetto appunto alla fattispecie denominata, come dicevamo, in euro e sterline. Speriamo di averlo chiarito anche noi questa mattina. Noi stiamo già quasi concludendo, Salvadanaio, e c'è qualche ascoltatore che dice, ma insomma parlate in italiano perché non si si capisce niente. Cioè, per ricostruire in italiano questa vicenda è assolutamente complicato. Noi ci proviamo. Laura, lascio chiudere a te questa puntata. Se mi aiuti, io non so, che c'è qualche altra informazione. Sì. Secondo te, la procedura dell'ABI sarà fatta a costo zero, voglio sperare, per i detentori di queste obbligazioni? Sì, sì, questo assolutamente sì. Allora, due cose rapide. Torniamo su questo aspetto del ruolo dell'ABI. Volevo precisare questo anche in merito al così ritardo con cui tu hai detto l'ABI sembra essersi mossa rispetto a Lehman. Ecco, io vorrei dire questo. Innanzitutto dire che l'ABI non era tenuta, quindi se ha fatto questo l'ha fatto anche con un senso di responsabilità nei confronti dei risparmiatori italiani, quindi ben vengano tutte le iniziative sia per Lehman che per GM. Però è anche vero che sul caso GM non ci si era effettivamente accorti di questo problema, ce ne siamo accorti tutti un po' tardi, perché c'è stato chiamiamolo una forzatura nell'ordinanza che ha fatto il giudice americano su questo tema, dando un ruolo al rappresentante in Europa di GM, che nel caso erano insomma alcune banche, che questi rappresentanti non potevano avere. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare invece Angelo D'Alessandro e Raffaele Romano dello studio SGE, perché è stata grazie alla loro attenzione che abbiamo, diciamo, scoperto questo problema. Benissimo. Il secondo aspetto, veloce Laura, perché ho come senti la chiusura. Dire che nel caso delle obbligazioni emesse da GMAC, la società finanziaria di GM, questa società è ancora in bonis, per cui non rientra nella procedura fallimentare, non va iscritto, registrato al credito. Benissimo, Laura, ti ringrazio. Ringrazio moltissimo anche gli avvocati Garofalo e D'Anusso dello studio legale Allen & Overy, che sono stati con noi questa mattina. Salva Danaio è terminato, ci ritorneremo, seguiremo l'insinuazione al passivo, chissà come andrà a finire tutta questa vicenda, avremo ancora un anno di tempo, aspettiamo che GM torni in borsa. Intanto, buona giornata, domani.